Con Marco Cruciani, regista del documentario Calma e Gesso, che sarà presentato a Roma al Nuovo Cinema Aquila martedì 28 maggio 2019. Marco, ben trovato. Ciao a tutti, buona giornata. Ci racconti di questo lavoro? Sì, assolutamente. Allora è stato un viaggio bellissimo insieme a Mario Dondero, questo fotografo leggendario, fotoreporter, giornalista soprattutto, secondo le sue intenzioni, più che artista, anche se poi, diciamo, in fondo la sua carriera, lunghissima, durata poi a 88 anni quasi, e insomma nell'ultima parte della sua carriera è stato celebrato proprio come artista perché nei fatti lo è stato. Però nelle sue intenzioni invece ha sempre preferito definirsi un giornalista, cioè uno che cacciava la realtà, andava a caccia della verità, e sempre con un grande impegno civile e quindi ha lavorato per gli altri più che per se stesso, come spesso capita, no? Appunto ad un artista, ha lavorato per gli altri per far conoscere il mondo, quel periodo in cui non c'era niente, non c'era nessun wifi, non c'era, come fosse scontato, ma insomma era proprio un altro pianeta. E quindi questo gruppo di pellegrini che si dividevano fra Milano, Roma, insomma queste poche grandi piazze dove il giornalismo aveva le sue radici, ecco, da lì partivano per andare in giro per tutto il mondo, per il pianeta Terra, così a raccontare le cose più assurde, più impensabili, più tristi, più felici anche allo stesso tempo a volte. Quindi ecco, è stato un viaggio bellissimo il suo, un viaggio bellissimo il nostro, perché siamo appassionati alla sua storia, ci siamo conosciuti nelle Marche, dove lui ha vissuto l'ultima parte della sua vita, stabilmente. E insomma, sì, è stata una storia bellissima, avventurosa, appassionata e soprattutto, ecco, piena d'amore e di impegno civile, quindi è nato così, per esempio. Nel corso della sua carriera, su cosa ha puntato il suo obiettivo? Beh, Mario, soprattutto appunto facendo del giornalismo nella quotidianità, ha puntato alla realtà che scorre e ha puntato alla realtà dei grandissimi eventi, perché nel suo archivio e nel film troverete immagini di Reagan e Gorbaciov, di Arafat, per dire, di Fidel Castro, non saprei, i personaggi e personaggi della storia della cultura, quindi un ampissimo capitolo sui grandi artisti del cinema, piuttosto che della musica e della letteratura in particolare. È famosissima la sua foto del Nuovo Roman, cioè di questo gruppo di scrittori che paradossalmente è quasi nato grazie a lui, perché erano tutte schegge impazzite, un po' isolate, diciamo il Beckett. Insomma, un gruppo di scrittori antagonisti che Mario ha raccolto perché tutti editati da una stessa casa editrice, Edition de Minuit, a Parigi. Mario viveva a Parigi, è stato lì per 40 anni per fare il suo giornalismo e praticamente ha raccolto questi scrittori sotto la casa delle edizioni e praticamente li ha fotografati insieme e da lì è nato il movimento oggi conosciuto come Nuovo Roman. Insomma, ecco, lui si è mosso fra piccolissimi eventi, pescatori portoghesi nel 50, piuttosto che veramente sembra, è la storia del mondo, ecco, quindi questo ha cercato i grandissimi eventi perché per esempio ha fotografato la caduta del muro di Berlino, uno dei pochi fotografi che l'ha fotografata da est. E quindi è stato lì, è andato già lì poi anche un mese prima, quindi diciamo ecco, un fotografo che ha guardato la realtà in modo moltissimo profondo, ecco, secondo me sì. Tu come hai costruito il documentario? Questo documentario è stato un viaggio un po' folle perché abbiamo iniziato quasi giocando, perché la prima cosa che mi ha detto è che nessuno c'era mai riuscito e tantissimi gliel'avevano proposto questa cosa, perché effettivamente non è stato facile, insomma, correre indietro così. Lui una valigia sempre davanti alla porta e di giorno in giorno da una parte all'altra in linea di massima, ecco. Quindi ho iniziato a inseguirlo, a raccogliere materiali. Poi quando ho capito che era quasi inutile costruire una sceneggiatura perché la sua vita era proprio stracolma di cose, stracolma, e ho pensato che sarebbe stato meglio abbandonarsi così a questo flusso continuo e poi avere dei punti fissi per poterlo poi cercare di raccontare, ecco. E così è andata. Quindi non ho fatto altro che viaggiare con lui, con la macchinetta in tasca. Venivo da un percorso accademico di antropologia visuale che ho compiuto proprio a Roma, ma ecco, questo documentario mi sembrava di poterlo costruire così come proprio era Mario, su misura per lui, e quindi con una macchinetta in tasca, in completa soggettiva, continua soggettiva, e però cercando la sostanza più che la forma, ecco, o perlomeno una forma. ma molto, molto relativa alla sostanza delle cose. In questo caso la nostra sostanza era lui, che è una persona davvero meravigliosa, spero la conoscerete tramite il film, tramite il DVD, uscirà un doppio, ci sono due DVD, c'è un intero DVD dedicato ai contenuti extra, un'altra ora e mezza, oltre alle due ore del film con lui, quindi ecco, spero che Mario da questo lavoro, da questo progetto complessivo emerga insomma per quel gigante che è. La produzione del 2015, che tipo di circuitazione ha avuto? È stato autodistribuito, appunto ripeto, adesso non so quante persone, magari con le quali noi stiamo parlando, conoscono Mario, spero che sia una scoperta per molti, e quindi ho cercato di fare tutto proprio come era lui, e cioè totalmente indipendente. Lui ha sbandierato sempre un comunismo di primissima linea, d'accordo? E a me mi accusava invece di essere poco comunista, perché ovviamente sono cambiati i tempi, sono cambiate le tecnologie, sono cambiate tante cose, quindi diciamo era diversa la nostra forma in questo senso. E lui invece proprio quel comunismo, potrei dire di Berlinguer in questo caso, e quindi convinto, quel comunismo fatto di compagnia, però adesso l'altruismo non è che ne vedo tanto, per poter essere comunisti come erano loro, con le piazze strapiene di gente ogni volta. E quindi, ecco, diciamo la distribuzione è stata fatta un po' sullo stile di Mario, totalmente indipendente. E tutto il film è stato pensato e fatto così, fin dall'inizio. La Regione Marche ci ha aiutato, ma insomma è stato quasi totalmente fatto in maniera indipendente e distribuito allo stesso modo. Quindi abbiamo fatto più di 40 serate evento in tutta Italia. E partecipazione al festival, e poi ho atteso l'uscita di questo DVD per fare un ultimo giro del film nelle sale, appunto perché ha visto solo chi passava il giorno che c'eravamo, ecco. Ed è curiosissimo, nonostante che la mia città sia stata Roma per 10 anni e continuamente la frequento da altri 20, insomma a Roma ancora non siamo mai passati con questo film, ho sempre aspettato il momento giusto, e devo dire che devo ringraziare i ragazzi e lo staff del Nuovo Aquila, il direttore Domenico Viducci, il direttore artistico Mimo Calopresti, insomma, che hanno voluto il film lì da loro e che quindi ci danno la possibilità di farlo vedere a tanti, tantissimi amici di Mario che stanno là. Il titolo? Calma e gesso, perché è una frase che mi diceva mio padre che giocava a biliardo, ed era una frase che mi diceva nei momenti di frenesia nostra da bambini. Calma e gesso significava, appunto come dicono i giocatori di biliardo, calma e gesso, cioè quando le cosce un attimo stanno in una posizione bisogna rifletterci bene prima di tirare scorta. Ci sono sempre mille possibilità di giri che può fare una palla, e una volta Mario, siccome era, si dilungava in chiacchiere così fra mille persone, ritardavamo spesso, una volta mi diede un po' nervosito da questa cosa perché dovevo correre poi sulla strada, quindi accelerare, viaggiare male. E lui invece mi disse calma e gesso, cioè non importa, quando arriviamo arriviamo, insomma si può dire tante cose. Allora questa combinazione calma e gesso, come spiegherà lui nel film, proprio come dicono i due giocatori di biliardo. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web? Sì, allora da qui inizierà appunto questo percorso di proiezioni e di conversazioni in giro per l'Italia. Subito la prossima sarà il 3 giugno insieme a Giuliano Lucas e altri cari amici di Mario e ricercatori e studiosi della sua figura, della sua storia, a Milano. Ci ritroveremo all'ISEC, con l'Istituto di Storia, e quindi partiremo così, e tutte le informazioni viaggeranno tra i social, c'è una pagina dedicata, Calma e Gesso Dondero, e il mio personale Marco Bruciani ovviamente anche quello, un posto buono informativo, ma soprattutto sul sito, che nascerà e inaugureremo lo stesso 28, credo maggio o qualche giorno dopo, che si intitola, che si chiama, che è www.inviaggioconmariodondero.com. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 28 maggio 2019, con la presentazione del documentario Calma e Gesso, proiezione e incontro con l'autore Marco Cruciani. Marco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio fortissimo a voi, grazie. Siamo tutti a Roma, ci troviamo. Grazie mille, grazie per